verso le 5 Rashid inizia un gioco e la sua ombra si allunga verso oriente. Deve riuscire ad ammazzare il coprifuoco prima che soffochi Ramallah e la sua gente. Prima che soffochi Ramallah e la sua gente. Rashid rientra in casa ma si accorge, si accorge di aver perso la partita. Sui tre gradini dell'entrata scorge il corpo di suo padre in fin di vita. Il corpo di suo padre in fin di vita. Partirà domani per la capitale, impugnerà le bombe meglio di una spada. Andrà da quelli che lo chiamano animale a professare con la morte l'intifada. A professare con la morte l'intifada. Ma per Gerusalemme la strada è già finita. Torna a Ramallah, fai solo il tuo dovere. Se vuoi farlo puoi rischiare la tua vita per entrare dentro al regno del potere. Per entrare dentro al regno del potere. Rashid così decide di rischiare, decide di imbottirsi di tritolo. Esploderà il mercato della capitale, ma sarà martire, non morirà da solo. Sarà martire, non morirà da solo. Saluterà morendo questa ingiusta terra, dedicherà il suo ultimo sguardo a una bambina. Sarà altra legna sulle fiamme della guerra, ma non sarà fatta giustizia in Palestina. Non sarà fatta giustizia in Palestina. Addio Rashid, non puoi più ritornare. È atterrato il coprifuoco e tutto tace. È difficile tornare a respirare, ma è possibile il sentiero per la pace. È percorribile il sentiero per la pace. Ma per Gerusalemme la strada è già finita. Torna a Ramallah, fai solo il tuo dovere. Se vuoi farlo puoi rischiare la tua vita per entrare dentro al regno del potere. Per entrare dentro al regno del potere.